Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Di Dario Ricci. Agosto. La grande Olimpiade ha inizio. È la sfilata delle rappresentative di 84 paesi. Avery Brundage, presidente del Comitato Internazionale Olimpico, invita il capo dello Stato italiano a dichiarare aperti i giochi. Proclamo l'apertura dei Giochi Olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna. Le ultime Olimpiadi dal volto umano sono entrati nell'agenda così: i Giochi di Roma 1960, che si svolsero tra il 25 agosto e l'11 settembre. Una definizione che certo racchiude una buona dose di retorica, ma che fotografa anche il momento di quell'Italia 60 anni fa, un paese rinato dalle ceneri della guerra e che era sull'onda del boom economico, pur con tutte le sue contraddizioni, in un mondo dello sport che viveva già i riflessi della guerra fredda, ma presentava ancora una Germania unita, come non sarebbe stata poi con la costruzione del muro di Berlino, e che vedeva emergere l'Africa, che ancora oggi domina il mezzofondo mondiale e non solo. Nel nostro viaggio nella memoria torniamo a un giorno tutto d'oro per lo sport italiano durante quei giochi. Il 3 settembre del 1960. Sulla pista dello Stadio Olimpico un 21enne studente torinese sta per entrare nella leggenda incantando sui 200 metri. Ancora oggi Livio Berruti ricorda così quei giorni e i tanti campioni che insieme a lui li hanno resi indimenticabili. Quello che mi ha colpito di più forse è stato Abebe Bikila, l'atleta etiope che ha vinto la maratona, pensa, correndo a piedi nudi per 42 km e 195 metri sulla via Appia Antica, quindi cose terribili. E dopo che è arrivato si è messo ancora a fare degli esercizi di dettaticamento con un'estrema scioltezza. Poi invece una campionessa che ha colpito tutti per eleganza, per armonia, per bellezza anche fisica, e che ha colpito particolarmente anche me, è stata Vilma Rudolph, che ha vinto i 100, i 200, la staffetta 4%. Anche lei è stata un'atleta veramente unica nel suo genere. Cassius Clay, che ha vinto, in media massa piaceva molto per la sua capacità di irridere quasi all'avversario, ma soprattutto di quel periodo quello che mi rimane più impresso nella mente era l'atmosfera gioiosa, piacevole, senza discriminazioni né di carattere etnico, né di carattere confessionale, né di carattere politico, né di carattere economico, che si viveva in quel villaggio. Leggero corre in pista Livio, così come leggero è il suo animo pur nell'affrontare gli assi dello sprint mondiale. A quei tempi si correva in due giorni le quattro gare, cioè batterie, quarti di finale, semifinale e finale. Nel primo giorno vinco facilmente sia la mia batteria sia i quarti di finale, facendo 21 netti in batteria e 28 nei quarti di finale. Nella semifinale, che si correva appunto il giorno dopo, alle 3 del pomeriggio, mi sono trovato contro i tre primatisti del mondo del momento. Ora, da notare che a quei tempi si correva in 6, non si correva in 8 come adesso. E quindi avrei dovuto battere uno dei tre primatisti del mondo per poter accedere alla finale. E infatti scendo in pista tranquillamente, guardo con calma i miei avversari, cerco di fare la mia gara come al solito e vedo che arrivo fino in fondo. Sono sempre in testa, anzi gli ultimi 20 metri rallento persino per non sprecare energia, visto che avrei dovuto correre 2 ore dopo. E la cosa che mi ha sconvolto, però, ma in senso negativo, è stato quando ho sentito il tempo, 25 record del mondo. Io che purtroppo ero noto per il mio poco allenamento, io mi sono veramente arrabbiato perché ho pensato, come faccio in 2 ore a recuperare la fatica che ho fatto nel semifinale? La soluzione, anche in questo caso, la leggerezza. Sentite Berruti. Invece di scendere un'ora prima della finale sulla pista per scaldarmi con i miei avversari, mi sono ben guardato dal farlo, infatti sono sceso mezz'ora prima, tanto per far vedere che esistevo anch'io, perché prima sono rimasto sugli spalti a vedere gli altri che si scaldavano, i quali mi guardavano con molta curiosità e sorpresa, pensando che io volessi snobbarli, non sapendo che invece ero io che ero molto preoccupato. Scendo in campo, faccio 2 o 3 partenze così, faccio un leggerissimo allungo, ma proprio una cosa minima e basta, quindi hanno fatto praticamente riscaldamento e mi presento i blocchi di partenza. I fatti danno ragione a Livio e come? Il giudice ha alzato la pistola, via, sono partiti, avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico, all'interno di Berruti si lancia Johnson, Seiya appare leggermente staccato, sono in piena curva con Berruti che conduce e all'esterno lo attacca Norton, Berruti attacca in testa gli ultimi 60 metri, poi cavanta al largo, Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Secondo Carney, Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia. L'atleta italiano si abbatte sulla pista, stroncato dall'enorme sforzo, ma si rialza subito e corre festante ad abbracciare i suoi avversari. La cronaca del trionfo ora da parte del diretto interessato. Alla partenza sento un leggero rumore e scatto e parto. Era il mio avversario dietro che faceva una partenza falsa, aveva premendo sui blocchi, ha fatto un rumore. Ovviamente lo start, vedendo che tutti e due sono partiti, non sapendo chi darlo perché eravamo partiti praticamente insieme, non l'ho data a nessuno. Corro, parto, la curva era sempre il mio punto di forza e quindi come tale sapevo che dovevo gestire bene questi primi 100 metri, uscendo in testa come speravo, come infatti avvenne, e poi cercare di allungare leggermente il passo per evitare di ingripparmi, di forzare troppo per non sprecare in maniera inutile le energie. Riesco a fare questo controllo di gestione, diciamo, della corsa, arrivo fino in fondo cercando di captare ansiosamente i rumori dello scalpiccio dell'avversario, perché anche lì si verifica un fatto curioso: non senti il rumore della folla che applaude, ma riesci a sentire il rumore dell'avversario. Fai una specie di selezione di rumori che ti permettono di controllare anche la gara. E notamente vedevo questo filo di lana, a quei tempi c'era veramente il filo di lana che si avvicinava sempre di più, e quando sono giunto all'ultimo metro mi sono buttato e con una forma con una specie di rilassamento, poi sono anche caduto, ma questo proprio non tanto per sbilanciamento quanto perché mi sono lasciato andare, per la soddisfazione di aver superato bene anche questo esame così importante. Ultimi allenamenti preolimpionici per la nazionale di pallanuoto sotto la guida del mago ungherese Bondi Zalioni. Palleggio tra i due portieri Rossi e Spinelli, più forte la candidatura del primo. Gli altri suoi titolari sono Daltrui, Pizzo, Giunta, Guerrini, Parmeggiani, Bardi. Riserve di primo piano, Lonzi, Mannelli secondo, Spinelli. Una squadra giovane di non troppo peso, ma molto temperamento. Giornata d'oro quel 3 settembre, dicevamo. Sì, infatti, due ore dopo il trionfo di Livio Berruti, il settebello della pallanuoto vince il torneo olimpico, bissando così il successo di Londra 1948. Eraldo Pizzo, il caimano della nostra pallanuoto, rivive la genesi di quella squadra e di quella vittoria. Con la squadra è nata dal 57, è stata costruita, sono stati così, tra virgolette, stromessi un po' di giocatori cosiddetti anziani, e ha cominciato, Zoglia mi ha cominciato a costruire questa squadra perché aveva visto gli elementi giusti per sostituire i vecchi Volponi, Rubini, Marciani, Peretti, insomma con tutti, Carlo Pederzoli, tutti questi grandi atleti qua. La cosa straordinaria è stata che abbiamo vinto le Olimpiadi prima di giocare l'ultima partita. Quella lì è stata una cosa un po' fuori dal normale, ecco. In effetti gli azzurri la loro impresa l'avevano già compiuta prima dell'ultimo atto contro l'Ungheria. La partita decisiva per noi è stata quella con la Russia. Siamo stati praticamente un pochino più di metà partita con un uomo meno. Un uomo meno vuol dire subire gol, certamente. E invece noi, Dante Rossi, il portiere, ha fatto una partita straordinaria e tutti noi, diciamo, abbiamo lottato col coltello in mezzo ai denti perché eravamo 2-0 in vantaggio. Però se avessero fatto il gol con l'uomo in più, la partita 2-1 sarebbe rimessa su un binario di rischio, e invece siamo riusciti a portare la partita in fondo senza subire gol e abbiamo finito la partita 2-0. Di lì è stato il momento clou, il momento più importante dell'Olimpiade. La partita successiva con la grande Jugoslavia abbiamo fatto 2-1, è stata una battaglia perché noi siamo andati subito in vantaggio. La Jugoslavia a pochi minuti dalla fine ha pareggiato, noi abbiamo avuto ancora la forza con Parmeggiani che ha fatto due gol da distante, da fuori area, ha fatto due gol e abbiamo vinto anche quella partita lì. Noi non lo sapevamo, ma quel risultato lì ci consegnava la medaglia d'oro. Contro l'Ungheria il settebello quindi entra in vasca per l'onore, ma già con l'oro al collo. Gli italiani praticamente hanno già vinto il titolo, ma devono dimostrare la validità della conquista proprio ai campioni uscenti, agli ungheresi. L'inizio è per gli ungheresi. Il loro vantaggio arriverà a 2-0. Felkai realizza il primo gol. Gli italiani reagiscono. Tirano adesso da tutte le posizioni. Questo gol di Parmeggiani riduce il distacco 1-2. Subito dopo segna lavoratori, 2-2. Gli ungheresi termineranno il primo tempo in vantaggio per 3-2. La squadra italiana è sempre all'attacco. Gli ungheresi sono costretti a commettere più di un fallo per arginare l'offensiva. Infine, l'arbitro punisce con un tiro libero i magiari. Tira avanti, rete. L'Italia termina imbattuta davanti all'Unione Sovietica e all'Ungheria. Gli ultimi istanti della sfida coi magiari nel racconto dell'indimenticabile Enrico Ameri. Ecco che Pizzo tenta di resistere alla carica del suo avversario diretto, ossia di Evescivi, riesce infatti e lancia poi il pallone indietro, ma proprio in questo istante l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. Gentili ascoltatori, chiudiamo questa nostra radiocronaca dallo stadio del nuoto esultando con gli spettatori, con tutti gli altri nostri atleti, con tutte le riserve, con i nuotatori che si sono fatti vicini ai nostri pallanuotisti. Esultiamo, ripetiamo con tutti per la splendida vittoria dei nostri pallanuotisti. Ancora oggi Pizzo rimprovera bonariamente Berruti di aver oscurato quel successo memorabile. Scherzando, però un po' di ragione ce l'avevo, perché andare a vincere una medaglia d'oro in un sport di squadra 2 ore dopo che l'aveva vinto Berruti nei 200 piano per la prima volta, un bianco che vinceva con la gara lì, un italiano, lei si può immaginare quanto ci ha tolto a noi dalla pallanuoto. Ma con Livio, quando mi capita di vederlo, glielo ricordo sempre e ci facciamo 2 risate. Diciamo che poi alla fine è andata bene anche così. Qualche istante di pausa ora, poi ancora insieme qui a Olimpia per rivivere le emozioni di Roma 1960. Olimpia. Passati i giochi olimpici restano i bilanci che diventano storia. 13 medaglie d'oro all'Italia, mai tante nella nostra vita sportiva. Lui da solo ne ha guadagnate 2, Gagliardoni, detto anche l'Owens del ciclismo. Tutti i primati ai ciclisti azzurri con 4 vittorie su 5. Veghetto e Bianchetto fanno rima oltre che tandem. Voci e suoni che ci riportano a Roma 1960, le Olimpiadi che oggi vogliamo celebrare e rivivere, appunto a 60 anni di distanza. Ebbene, nel medagliere azzurro, ciclismo e pugilato la fecero da padroni, rispettivamente con 5 e 3 ori. E sulle due ruote fu la pista in particolare a sorriderci, grazie soprattutto alla doppietta di un 21enne di Villafranca di Verona, Sante Gagliardoni, che trionfò nello sprint e nei 1000 metri. Un anno straordinario quel 1960 per Gagliardoni, che si era però aperto per il mondo del ciclismo con la scomparsa del campionissimo Fausto Coppi. Io avevo conosciuto Fausto Coppi al fine 59 a Parigi, ho vinto la medaglia dei giovani con lui, che era un acerissimo tifoso della pista, e mi aveva indicato ancora prima che dovevo vincere. Poi invece l'anno dopo ho cominciato con il suo funerale e è stata una cosa un po' fuori del normale, però diciamo che ricordando lui, poi quell'anno ho vinto appunto l'Olimpiade, ho vinto tutti i gran premi, sia i giochi del Mediterraneo e poi l'Olimpiadi, 2 medaglie all'Olimpiadi di Roma. E dire che quelli di Roma non dovevano essere proprio i giochi di Gagliardoni, eh? Sentite un po'. Favorito era Gasparella, Bianchetto e Veghetto. Io ero un PO, però ero riserva di tutti quanti. E io correvo su strada e vincevo su strada, ma mi sarebbe piaciuto più correre su strada che andare in pista. Poi all'ultimo momento il Costa, CT, il nostro CT azzurro di allora, mi ha chiamato una sera e mi ha tenuto lì 4-5 ore, mi ha detto: tu devi correre il tandem, devi fare la velocità, devi fare il chilometro e devi fare il seguimento squadra. E sì, dico, poi cosa faccio? E sì, perché tu sei riserva di tutti. E allora a un certo punto, se manca qualcuno, tu lo puoi fare perché hai le qualità e la possibilità di farlo. E allora io, Bianchetto e Beghetto, era Veneto come ero Veneto io, ho rinunciato al tandem, perché io allora ero campione italiano del tandem, io e Zanetti, da 4 anni come specialità olimpiche, perciò mi aspettava di diritto. Solo che poi Bianchetto, essendo appunto, ripeto, veneti, ho rinunciato anche per loro, e per fortuna è andata bene che poi hanno vinto anche loro. Nel giro di 3 giorni, tra il 26 e il 29 agosto, Gagliardoni prima trionfa nei 1000 metri, poi fa il bis nello sprint bruciando il belga Sterks. Era un osso duro perché aveva battuto in semifinale Gasparella, che era appunto favorito, E a un certo punto, quando il Bega ha battuto Gasparella, il Costa, il nostro CT della nazionale, è venuto lì e mi ha detto: oh, devi impegnarti qua al massimo perché Gasparella è fuori, adesso rimani solo te. Guardi, scusate, io ho appena fatto il chilometro, sono ancora qui che devo ancora recuperare. No, devi andare su, devi vincere per forza, perché sennò qui perdiamo una medaglia. Per fortuna ho recuperato, perché quando si è cominciato a fare la semifinale, cosa hanno fatto? Era a tre, uno è scappato via subito, dovuto andarlo a prendere. È scappato via là, dovuto andarlo a prendere, poi mi sono arrabbiato e sono scappato via. Io le ho staccate tutte e due. Questa era la semifinale perché aveva appena fatto il chilometro. No? Gagliardoni attacca all'esterno, uscita dell'ultima curva, sono impegnati a fondo, passa Gagliardoni, primo Gagliardoni, secondo Sterze. Gagliardoni è campione olimpico della velocità individuale. Il ricordo più bello, non il podio olimpico, ma la festa dopo la seconda vittoria. Mi ricordo io quelle Olimpiadi come fosse di 2-3 giorni fa, perché io appena finito le Olimpiadi mi sono rilassato e lì c'era la Magnani, c'era la Cinecittà allora che veniva a fare il tifo per me, perché io in allenamento tutte le mattine passavamo di lì, no? E ormai eravamo diventati amici, no? E quella sera ero venuto a vedere tutte le Olimpiadi, tutte le equipe che stavano facendo questi film, e allora quella sera lì siamo andati a fare una festa tutti assieme lì con Gianni Banti, lui è il fungo, dove c'è quel palazzo, e lì hanno fatto una festa mica galattica, c'era la Fiorentina che allora mi sembra ha vinto lo scudetto prima o dopo, adesso non mi ricordo in che anno, ma comunque c'erano tutti, c'era il Kessler, c'erano, è fatta una festa mega galattica e io diciamo appena vinto l'Olimpiade me la sono goduta proprio. Ora siamo alla categoria dei pesi welter al limite di 67 kg, in questa categoria vedete impegnato Nino Benvenuti, il pugile forse dotato di maggior classe della squadra italiana. Avversario di Benvenuti è il sovietico Radomiak. Tra gli ori del pugilato, quello più splendente fu di sicuro quello del triestino Nino Benvenuti nei welter. Anche perché fu quel trionfo la premessa della straordinaria carriera da professionista di Nino, più volte campione del mondo nei super welter e nei medi. Fa fatica a rientrare nella categoria, Benvenuti, ma i suoi sacrifici saranno poi premiati. Io avevo già vinto due titoli europei nei super welter nel 57 e nel 59, essendo biennale il concorso europeo, e perché abbiamo ritenuto che fosse meglio così. Ci siamo provati con il signor Rea, l'allenatore, a vedere se mi riusciva di scendere di categoria. Sai, essendo alto, quasi 1,80 m, insomma, allora ero ancora giovane, poi sono cresciuto ancora un centimetro, due, ecco, era più speranza quella di poter, con un'altezza così, combattere contro pugili di 67 kg. E c'è stato un grande sacrificio da parte mia, ma ha avuto i suoi risultati. In finale, Benvenuti, 21 anni, se la vede col sovietico Radomiak. Un pugno rimane nella storia e nella memoria. Mi ricordo benissimo quel montante destro che lo mise per terra, seduto a terra, e a guardarmi così strabiliato lui anche. E quello fu il momento che mi diede la vittoria, perché era un pugile di grande valore. Ma sai, quando uno riesce ad avere un colpo come quello che sono riuscito ad avere io e metterlo a terra per 8 secondi, insomma, quello significava la vittoria in 3 round. Ripetuti inviti dell'arbitro scozzese a Radomiak non tenere la multa di Benvenuti. In questo momento finiva l'incontro, vittoria nettissima di Benvenuti, che ha finito non troppo brillantemente, ma che in realtà ha disputato un gran match. Il suo avversario non ha avuto alcuna possibilità di contrastargli il passo. Come si festeggia un oro olimpico? Nel modo più ingenuo e spontaneo. Prima di tutto piangendo e con un'emozione grandissima, perché in quel momento rivedevo me stesso bambino, di quando pensando alle Olimpiadi dicevo come sarebbe bello poter partecipare a una Olimpiade, e invece l'Olimpiade non l'ho solo partecipata, l'ho anche vinta. E alla fine di tutto, poi, anche con quel premio stupendo che è stato la Coppa Valbacher, che viene data al miglior pugile del torneo, che mi ha veramente rallegrato, allietato reso felice per sempre, insomma. E dire che un altro pugile aveva fatto anche lui molto bene in quel torneo, è un giovane americano, un medio massimo, di un certo interesse, di una certa prospettiva. Eravamo al Villaggio Olimpico, c'era un pugile americano di colore nero, alto, ma era pieno di vitalità, parlava, scherzava con tutti, aveva un modo di fare che mi attirava e volevo conoscerlo. Sono stato vicino e l'ho conosciuto e ho stretto anche amicizia con lui subito. Era Cassius Clay, era il Cassius Clay che sarebbe diventato Muhammad Ali. Ecco, e che partecipava a quell'Olimpiade e che la vinse nella categoria dei medio massimi. Fu lì che lo conobbi e poi rimanemmo amici. Ancora oggi l'oro di Roma è il trionfo più bello per Nino Benvenuti e per tanti dei protagonisti di quei giorni unici e indimenticabili. È la medaglia più importante, il titolo più ambito, è quello di cui ci si può fregiare senza diventare ex campione del mondo, come si è invece da professionisti, perché tu lo vinci e nessuno ti batte più. Per 4 anni sei il campione olimpico e lo sei per tutta la vita. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.